galantuomo, come ama la caccia. Sant'Ignazio m'aiuta, della signora seguimo la traccia. Giunti con erba villetta tra le fate perduta, ella ben trò, ne si sola ben presto. Allor scavalco resto il muro del giardino con i miei cagnotti e piombo in casa. Il bravo streppa, fiuco, razzolo, fiuco. Ehi, Lancelotti! Non si è trovato! Tal beccarda ironia, ch'io lo trassi in arresto. E lo va. Egli è là. Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco. Hello!